Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi un saluto speciale, per cominciare, ai tanti italiani che ci ascoltano dall'estero. Sappiamo che siete numerosi, dall'Australia al Brasile, dall'America all'Europa fino alla Cina, e che siete in crescita settimana dopo settimana. Continuate ad ascoltarci, noi restiamo sempre ben sintonizzati sulle vostre frequenze. Anche per questo vi ricordiamo che è attiva Matching, la prima piattaforma interamente dedicata ai giovani professionisti all'estero. Vi potete accedere dal blog di Giovani Talenti. E veniamo alla storia di oggi, la storia di una giovane coppia friulana emigrata in Gran Bretagna. Entrambi hanno una formazione scientifica, ma entrambi, dopo anni passati a inseguire labili soddisfazioni lavorative nel bel paese, hanno concluso che il nostro mercato del lavoro non era in grado di offrire proposte adeguate alle loro qualifiche. Oltremanica, il loro background è stato valorizzato. Ma è normale tutto ciò? Dalla Gran Bretagna mi sono accorto che in Italia c'è sicuramente qualcosa che non va nel mercato del lavoro, soprattutto per i neolaureati il mercato del lavoro è molto duro, e anche se nel caso vengano assunti subito dopo la laurea, se sono fortunati, vengono sfruttati e sottopagati soprattutto. Dennis Missana, 32 anni, è Senior EMEA Sales Support Specialist per Sonic Wall, azienda britannica operante nel settore della sicurezza internet. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. In apertura la sesta puntata dell'indagine di Giovani Talenti sui numeri della nuova emigrazione. Oggi ci concentriamo sui ricercatori. Parla Simona Monteleone, ricercatrice dell'Università Partenope di Napoli, nonché coautrice del paper Analisi multivariata delle tendenze migratorie dei ricercatori italiani all'estero. Il nostro campione è formato da 412 contatti tra dottorandi, ricercatori e professori di diverse università. Gli intervistati hanno un'età compresa fra i 31 e i 40 anni, sono soprattutto uomini e questi emigrano con un titolo di dottore di ricerca e gran parte di essi vivono all'estero da più di un anno. È interessante vedere che il 90% degli intervistati giudica non adeguato il finanziamento della ricerca in Italia e l'80% di essi ritengono che l'accesso ai fondi di finanziamento non è meritocratico. E questo è importante perché appunto è fra i motivi che spingono i soggetti a emigrare. E all'estero cosa trovano? Infatti all'estero trovano migliori condizioni di vita, migliori condizioni occupazionali e soprattutto un sistema di ricerca con strutture più adeguate e finanziato, perché è quello che manca soprattutto in Italia. Il 70% degli intervistati presenta una bassa o nulla propensione a rientrare in Italia dopo essere partiti. Occorre dare delle soluzioni adeguate per attirare questi ricercatori. Oltre il 95% degli studenti diplomatici nella classe scientifica della Scuola Galileiana di Studi Superiori hanno deciso di proseguire la propria carriera fuori dai confini nazionali. Lo rivela il Corriere della Sera a proposito della scuola, dove confluiscono i 24 migliori studenti dell'Ateneo di Padova. Per il rettore Giuseppe Zaccaria, consegniamo alle università europee e americane i frutti del nostro lavoro. Questo è un vero peccato. Il problema in Italia non è che la gente se ne va, ma che i cervelli non sono voluti, danno fastidio. Così l'astrofisico Riccardo Giacconi, vincitore del premio Nobel per la fisica 2002 da 54 anni negli Stati Uniti. Il 45% dei ricercatori biomedicali italiani andati all'estero per lavorare si sono recati negli Stati Uniti, segue la Gran Bretagna. La maggioranza di loro sono giovani, nel 37% dei casi hanno fra i 30 e i 40 anni. Il quadro è emerso dalla prima conferenza nazionale sulla ricerca sanitaria, lanciata anche la rete dei cervelli italiani, il network degli scienziati all'estero, i cui nomi confluiranno in un'anagrafe. Scarsa produttività del lavoro, alto numero di precari, elevatissima disoccupazione giovanile. Sono alcuni dei freni alla ripresa economica, secondo il governatore di Banca Italia Mario Draghi. L'Italia è a un bivio e se non si agisce presto, saranno i giovani a rischiare di subire le conseguenze peggiori del declino, secondo Draghi. Giovani, innovazione e talenti al centro di numerose iniziative. A Torino si è svolta l'Assemblea di Rena, rete per l'eccellenza nazionale. Milano è stata invece teatro della Mind Bridge Competition, dove è stata presentata un'interessante ricerca sulle start-up italiane innovative. Il 95% dei fondatori ha una laurea, il 33% ha ottenuto un PhD all'estero e l'età media dei creatori è 35 anni. In programma dal 17 al 21 novembre a Roma TNT Festival dei Giovani Talenti, la prima manifestazione dedicata ai ragazzi e al talento diffuso. Protagonisti gli Under 35, Paolo Di Caro, direttore dell'Agenzia Nazionale per i Giovani. TNT è un esperimento per far emergere in Italia il talento che esiste ma purtroppo non fa notizia. In un paese nel quale i giovani hanno sempre meno spazi è particolarmente importante far capire che cosa accade a livello giovanile, quali eccellenze esistono, e quindi per 5 giorni ci saranno dei ragazzi le cui storie sono state selezionate da un comitato scientifico che si metteranno in mostra e che racconteranno la loro esperienza in un processo virtuoso di incontro con il mondo della formazione, con il mondo dell'impresa, perché nell'arco di quelle 5 giornate ci saranno anche i rappresentanti della formazione e delle risorse umane di importanti aziende a livello nazionale. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo. La Commissione europea cerca economisti senior, forniranno consulenza ai direttorati generali a Bruxelles, scadenza per i CV 25 novembre, info su europa.eu/epso. Una consulente nel management della finanza pubblica a Ecoris per la sede di Rotterdam, gestirà progetti internazionali, info su ecoris.com. E infine un direttore della scienza ed esplorazione robotica alla European Space Agency, sede di Madrid, scadenza per i CV 10 dicembre, info su esa.int. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta a Londra per parlarvi della vicenda di una coppia di giovani friulani. Nome: Danny. Cognome: Missana. Età: 32. Città di origine: Spilimbergo, in provincia di Pordenone. Studi: laurea in matematica, master in marketing and business communication. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2007. Per andare dove? Londra. Perché? Alla ricerca di nuovi stimoli. Quale lavoro svolge attualmente? Sono senior sales support specialist presso Sonicwall, azienda leader nel mercato della sicurezza informatica. Dove? A Chertsey, una località a 20 km da Londra. Tornerai? Al momento no. Planet Funk, Who Said Stuck in the UK, inchiodati nel Regno Unito, è il refrain di questo brano che in qualche modo riflette la condizione di Dennis ed Elena, protagonisti della puntata di oggi. Non so se torneremo in Italia, ci piacerebbe tanto, soprattutto per riavvicinarci a famiglia e amici, ma ci fa molta paura. Paura di buttare via quanto di buono abbiamo costruito in questi anni di esperienza lavorativa e di vita all'estero, paura di costruire una famiglia in un paese che non offre sicure garanzie economiche né garantisce un futuro adeguato ai nostri figli. Così la giovane coppia protagonista oggi di Giovani Talenti descrive le proprie difficoltà nell'ipotizzare un possibile futuro ritorno in Italia. Buon pomeriggio, Dennis. Buon pomeriggio, Sergio. Buon pomeriggio, Elena. Buon pomeriggio. Oggi Giovani Talenti torna a indagare il fenomeno delle coppie che espatriano. Coppie di giovani, coppie di professionisti che lasciano l'Italia per trovare migliori opportunità non solo professionali ma anche di vita. Tra poco parleremo con Elena, ma partiamo da Dennis. Perché l'Italia, ora che vivete fuori, vi fa paura? L'Italia ci fa paura perché non è un paese normale, dove non è facile vivere e dove non è facile trovare un lavoro che garantisca una sicurezza economica e quindi sia facile, soprattutto per i giovani, costruire una famiglia e una vita insieme. Dennis, partiamo dal tuo percorso di studi in Italia, tutti i diplomi in elettronica, poi decidi di iscriverti alla facoltà di matematica ad Udine. Perché questa scelta ha l'apparenza un po', diciamolo pure, anticonformista? Io avevo deciso che se dovevo continuare a studiare volevo fare ciò che mi piaceva e ciò che mi ero sempre trovato bene a fare alle scuole superiori, ed è qui la scelta un po' tipica di fare matematica invece di proseguire il percorso che avrebbe portato a fare ingegneria in elettronica. Come ti trovi in Ateneo? Qual è il tuo giudizio sull'università italiana? Nella mia situazione, che era un po' atipica, devo dire, perché in matematica potete immaginare che non c'erano molti iscritti, mi trovo molto bene perché era come essere in una piccola famiglia, i professori erano preparati ed era tutto molto ben organizzato a mio avviso. Però poi, una volta trasferito all'università, mi sono scontrato con quello che secondo me è uno dei problemi dell'università italiana, che è che non aiuta i giovani a inserirli nel mondo del lavoro, fornisce una buona preparazione, ma il mondo del lavoro non è pronto ad accoglierli. Ecco, tu tra l'altro un'occhiata ce la dai a una possibile carriera accademica, però ti scoraggiano e la domanda è un paese avanzato? Secondo te è un paese che mette al centro della progressione la fortuna? Perché diciamolo, per fare un buon dottorato dovevi semplicemente aver fortuna. Avevo controllato parlato col mio relatore, giusto per capire cosa avrebbe comportato una scelta di proseguire nel campo accademico, e ricordo che questa persona aveva spiegato a me stesso come bisognava avere fortuna a essere scelti per un dottorato, fortuna dopo il dottorato a fare solo qualche anno di precariato e fortuna poi a essere scelti in un concorso per un ruolo di ricercatore. A quel punto cerchi lavoro nel settore privato, Dennis, ti orienti su banche, assicurazioni, società di consulenza, e anche qui comincia un percorso che ti porta a vivere situazioni paradossali. Partiamo dalle banche. Qui tu ammetti di esserti affidato alle conoscenze per fare colloqui, e la domanda è: così difficile trovare opportunità nel settore bancario sulla base di un mercato del lavoro trasparente e aperto? A me era capitato che era praticamente impossibile trovare una posizione in banca pubblicizzata, e poi in pratica capita che tramite alcune conoscenze riesco a ottenere alcuni colloqui bancari. Il primo colloquio è in una banca piuttosto grande, dove praticamente eravamo in 6 persone a fare colloquio. È stato un colloquio molto formale, e alla fine della giornata delle 6 persone che eravamo, 4 laureati e 2 ragionieri, sono stati scelti i 2 ragionieri. La domanda è: a cosa serve studiare se poi appunto ti passano davanti gli altri? E con l'altra banca? Con l'altra banca anche qui il colloquio è stato molto formale, l'intervista era andata molto bene, il colloquio. Purtroppo per 6 mesi nessuno mi contatta, e capita che in una data stranissima, il 29 dicembre, questa banca mi telefona, mi dice che finalmente dopo 6 mesi hanno deciso di assumermi, ma a quel punto avevo già dato la parola a quello che sarà il mio futuro datore di lavoro, qui non me la sentivo di voltare le spalle. Insomma, 6 mesi sono anche una vita, ci potevano pensare un po' prima. Nel settore delle assicurazioni spedisci 10 curricula, ti risponde una sola azienda. E come va a finire? Anche in questo caso mi capita di sentirmi dire che sono la persona adeguata, ma per policy aziendale possono offrirmi solo un contratto di 6 mesi, che a quel tempo non potevo accettare, perché per essere esonerato al servizio militare la legge mi richiedeva un contratto di almeno 12 mesi. Qui diciamo, insomma, si è unita anche un po' di sfortuna, se vogliamo. Tu poi, diciamo, scansi con uno scatto di orgoglio un'altra azienda che ti voleva assumere per il tuo diploma da perito e non per la tua laurea. Eviti una software house che per 11 ore di lavoro al giorno ti offriva la fantasmagorica cifra di 800 euro al mese, e approdi infine in una società di consulenza. Cosa vai a fare e quale bilancio dai di quell'esperienza? Questa società di consulenza lanciava in quel momento un nuovo software gestionale sul mercato italiano. Quindi fin da subito ho capito la difficoltà del mercato dell'information technology in Italia, e ho potuto creare delle basi di sales e marketing che mi sono sicuramente servite per il mio proseguo della carriera. Dopo 4 anni di lavoro decidi di iscriverti a un master part time in marketing and business communication a Bologna, alternando lavoro e studio. Peccato che alla fine del master, contrariamente alle attese, le grandi aziende che insomma dovevano collaborare a questo percorso di studi offrono solo stage. La domanda però è: sono seri questi master in Italia? A mio avviso non sono molto seri i master in Italia, e vorrei semplicemente suggerire di valutare bene prima di intraprendere la strada di un master, perché ci sono anche dei costi coinvolti, e se poi le opportunità, soprattutto con le aziende partner maggiori, spariscono, diventa un po' inutile. E a questo punto arriviamo al bivio. Ti accorgi di essere qualificato più del dovuto, ti rendi però conto che il nostro mercato del lavoro ti fa spesso e volentieri proposte inadeguate. È un paese normale, con un mercato del lavoro normale. Dalla Gran Bretagna mi sono accorto che in Italia c'è sicuramente qualcosa che non va nel mercato del lavoro, soprattutto per i neolaureati il mercato del lavoro è molto duro, e anche se nel caso vengano assunti subito dopo la laurea, se sono fortunati, vengono sfruttati e sottopagati soprattutto. Con tua moglie Elena, che tra poco sentiremo, ti decidi a grande passo, e l'aprile del 2007 decidete di trasferirvi. Elena ha già un'offerta di lavoro, tu invece no. Vai in Inghilterra, cominci a studiare l'inglese e, pur diciamo novizio, scopri, parole tue, un mercato del lavoro dinamico e ricco di opportunità, dove ci si affida completamente alle agenzie di recruitment e ai cosiddetti headhunters. A differenza dell'Italia, tra l'altro, i colloqui arrivano tutti nell'ambito del settore dell'information technology. Cosa differenzia questi colloqui in termini quantitativi e qualitativi rispetto a quelli che avevi fatto in Italia? Sicuramente tutti i colloqui che ho sostenuto sono stati meno formali, e cosa importante che ho notato rispetto all'Italia è che sia che un colloquio andasse bene o che un colloquio andasse male, venivo sempre contattato entro una settimana con l'esito del colloquio, sia positivo che negativo. Attualmente cosa fai? Vengo assunto assunto da una società americana che si occupa di sicurezza informatica. Il mio ruolo è un ruolo intermedio tra gli headquarters dell'azienda e i venditori italiani. Praticamente devo adattare tutti i processi, le promozioni e le comunicazioni aziendali al mercato e al canale europeo di vendita. In 3 anni, tra l'altro, ottieni una promozione e 2 aumenti di stipendio. A giovanitalenti@radio24.it tu scrivi: una sensazione nuova che in 4 anni di lavoro in Italia non avevo mai provato. È così impossibile, secondo te, importare qui un po' di sana meritocrazia anglosassone? Secondo me è molto difficile, soprattutto perché non me la sento di dare tutta la colpa di questa mortificazione ai datori di lavori, perché a mio avviso è il sistema Italia che non funziona. Basti pensare alle tante piccole aziende che lottano ogni giorno per sopravvivere sotto un sistema di tassazione molto alto, quindi se loro devono garantire una certa tassazione dal governo è molto difficile anche per loro pagare i dipendenti in maniera adeguata. Sì, ricordiamolo, noi siamo il paese con la più alta tassazione sul lavoro dipendente in Europa. Dennis, domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va, cosa cambieresti e come? L'Italia la vedo come un paese arretrato, dove serve innovazione, dove bisogna sicuramente investire più sui giovani e soprattutto valorizzare di più il patrimonio intellettuale dei tanti laureati e magari puntare un po' di più sui laureati in materie scientifiche, come accade in molti paesi esteri. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Dennis Missana, 32enne Senior EMEA Sales Support Specialist per una delle aziende leader nel mercato dell'Internet Security in Gran Bretagna. Dennis è giunto oltre manica dopo aver conseguito una laurea in matematica, ma soprattutto dopo tante porte chiuse in faccia dalle aziende italiane che lo consideravano solo per il suo diploma, oppure li preferivano ragionieri, oppure ancora sparivano per mesi prima di fornirgli una risposta a seguito del colloquio. Per 4 anni Dennis ha lavorato in una società di consulenza prima di iscriversi a un Master in Marketing and Business Communication, concluso il quale ha compreso che il suo profilo professionale non trovava sbocchi soddisfacenti in Italia. Di qui la decisione di emigrare insieme alla moglie Elena Novello, 28 anni, che ci raggiunge ora in linea. Elena, partiamo dalla tua storia. Sei ingegnere civile, anche tu hai avuto difficoltà ad affermarti professionalmente in Italia. Raccontaci. Io, dopo una soddisfacente esperienza di lavoro nel mio settore ingegneria civile in Austria, purtroppo finita la laurea, una deludente ricerca di lavoro in Italia, decido di cercare lavoro in Inghilterra. Lo faccio tramite internet dall'Italia. Sono invitata a partecipare a una serie di interviste, di colloqui qui in Inghilterra, e in un'intervista collettiva con altri 6 candidati per un'azienda di ingegneria vengo prescelta, unica non inglese del gruppo e tra l'altro residente anche in un altro stato. Elena, tu sei critica, e partiamo dall'inizio, sei critica verso il sistema universitario italiano a differenza di Dennis, perché? In Italia, a mio parere, si insegna troppa teoria. Nella mia università di ingegneria io ho visitato in 5 anni di studio il laboratorio tecnico una volta sola, questo per me è incredibile. Poi c'è una scarsissima preparazione al mondo del lavoro e questo te ne accorgi dal giorno 1 in cui metti piede nell'azienda. I professori purtroppo, secondo me, non motivano gli studenti e purtroppo un altro punto dolente sono gli aiuti economici alle famiglie, che sono più basati sul reddito che sul merito. Tra poco ci arriviamo sulle famiglie, perché siete una coppia ed è un tema che voglio affrontare, però continuiamo parlando del punto di vista, come dire, professionale. L'Italia, Elena, è un paese strano, a volte un po' troppo formale, che finisce per perdere con la sua formalità quel sano pragmatismo che permea invece culture come quella anglosassone. Un buon esempio è l'esame di Stato per l'abilità a ingegnere. Spiegaci cosa ti è successo. Purtroppo non ci credo ancora, a distanza di un paio di anni. Comunque a me è successo che all'esame di Stato l'ho sostenuto dopo praticamente un mese che mi ero laureata e per una scelta ipocrita dal mio punto di vista di un professore non supero la prima prova. Vado a chiedere spiegazioni perché non mi capacito di questo risultato e alla fine della conversazione con lui mi sento dire: signorina, ora che ce l'ho qui davanti e parlo con lei, mi chiedo ma che cosa ho combinato. A questo punto, questo cosa mi ha comportato? Che poi mi sono trasferita in Inghilterra, ho dovuto ripagare la tassa per l'esame di Stato, ricomprarmi il volo per appunto sostenere l'esame e appunto anche chiedere ferie. L'esame di Stato in Italia, dal mio punto di vista, è una ripetizione degli esami che si sono sostenuti durante il percorso di studi. È strutturato completamente diversamente dall'Inghilterra, dove si può sostenere l'esame di Stato solo dopo un periodo di lavoro. Elena, tu sei ingegnere civile, hai lasciato l'Italia con una denuncia netta messa nero su bianco a giovanitalenti@radio24.it. In Friuli e forse in Italia non c'era nessuno che aveva bisogno di me. Sei arrivata a chiederti se tu non fossi semplicemente inutile, pur parlando due lingue, tra l'altro, inglese e tedesco. In Gran Bretagna, senza conoscerti, ti hanno offerto due colloqui di lavoro. Allora, la domanda è: che futuro ha un paese che fa sentire inutili i suoi giovani migliori e più preparati? Secondo me ha un futuro difficile, perché purtroppo tante decisioni sono basate non sul merito, ma in base alle conoscenze che l'individuo ha. Elena, torniamo al tema famiglia. Quali prospettive vedi in Gran Bretagna per una famiglia? È, a tuo parere, un paese migliore rispetto all'Italia per avviare un matrimonio? Terra, secondo me, ci sono dei problemi seri a livello sociale. Nonostante questo, comunque, l'Inghilterra è un paese che offre una varia e ampia offerta di opportunità di lavoro, con compensi adeguati e anche sicuri al costo di vita, e anche con una buona offerta dal punto di vista di istruzione. Per una giovane coppia che, per esempio, ha da poco avuto un bambino, i costi delle nanny sono sì alti, ma il part-time, per esempio, viene offerto tranquillamente, così pure anche i benefit di maternità sono positivi. Sì, è vero, ci sono dei benefit particolari quando nasce un figlio, e questo è importante ricordarlo, in Inghilterra, che alleggeriscono di molto anche i costi delle famiglie. Sono italiana e mi sento italiana, ma nonostante tutto questo, e solo per il motivo per cui sono nata in Italia, devo farmi carico anche dei dolori di questo paese, farmi prendere a schiaffi da un'economia che non mi vuole, non ha bisogno di me, non ha fiducia in me, non mi ha aiutata, stimolata a valorizzarmi? No, certo che no, c'è scritto. Elena, che madre è questa Italia verso i suoi figli che chiedono solo l'opportunità di dimostrare quanto valgono? Essendo donna nel campo dell'ingegneria, purtroppo è già difficile di per sé per me farmi strada nel mio campo. Comunque, nonostante questo, qui in Inghilterra, dopo 4-5 anni di esperienza lavorativa, sono stata project manager delle prime certificazioni ecosostenibili per edifici in Europa e tra l'altro a mesi partirà un progetto che mi vedrà speaker in corsi per professionisti in un'università qui in Inghilterra, a Londra. Tutto questo senza nessuna conoscenza, solo con il mio lavoro, la mia perseveranza e anche una buona dose di ottimismo. In bocca al lupo, Elena, in bocca al lupo anche per la vostra famiglia. È una domanda di rito per chiudere. A Denis, quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Dico di non avere paura, di prendere, partire, darsi magari un periodo minimo nel paese estero, di non mollare alle prime difficoltà, perché sicuramente si accorgerà che le cose funzionano diversamente rispetto all'Italia e soprattutto ci sono molte più opportunità di lavoro e molto più rispetto per giovani talenti. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova immigrazione. Oggi ci spostiamo in Francia per parlarvi di un sito web che in due anni è diventato un punto di riferimento per gli italiani che si trovano nella Ville Lumière. Gaspare Impastato, fondatore del sito Un Italiano a Parigi, ci spiega come è nato. Nasce nel 2008, quando già abitavo da più di 5 anni nella capitale francese, e nasce da un bisogno che ho sentito, cioè quello di condividere con gli altri italiani a Parigi le mie esperienze, il mio bagaglio di vita. Così hai attivato, immagino, una piccola comunità o una grande comunità di italiani intorno a te? Sì, posso dire che non appena ho messo il sito online ho iniziato ad implementare le pagine, hanno cominciato a riempire la mia casella email rapidamente con richieste da parte di utenti quanto mai eterogenei, ognuno con una propria identità e con esigenze diverse. Tu vivi da diversi anni a Parigi e probabilmente hai anche un osservatorio privilegiato su quella che si definisce la nuova immigrazione professionale italiana. Raccontacelo un po', almeno per quanto riguarda Parigi. Posso dirti che la maggior parte delle persone che conosco, che ho conosciuto, sono giovani che hanno una visione un po' disillusa dell'Italia, che sono qui perché hanno scelto di abbandonare l'Italia in quanto ad un certo punto della loro vita, in questo mi ci riconosco anch'io, non si identificavano più, si sentivano eccessivamente limitati nel paese natale, quindi l'hanno abbandonato comunque a malincuore e hanno scelto di venire in Francia, che in fin dei conti è un paese vicino culturalmente. E sono in crescita? Sì, sono in crescita esponenziale. Lo dico a malincuore, perché non penso personalmente che la soluzione per risollevare l'Italia sia quella di abbandonare il paese. È una scelta un po' egoista da un certo punto di vista, perché si pensa alla propria dignità, al proprio futuro, e quindi si abbandona l'Italia in cerca di un futuro per se stessi, ma al tempo stesso, se il potenziale giovanile se ne va, l'Italia non ha molte aspettative, non ha molte soluzioni. Ma cosa offre la Francia che non offre loro l'Italia? Dal mio punto di vista, quello che offre è il fatto che qui si va avanti senza compromessi, si trova molto più facilmente lavoro, non c'è bisogno di avere conoscenze o di qualcuno che faccia il tuo nome per essere assunto, e al di là di quello in linea di massima il sistema sociale funziona molto meglio, gli aiuti sociali sono abbondanti. Quali sono anche un po', se vuoi, i servizi che offri a chi vuole venire in Francia, emigrare in Francia, fare una vacanza in Francia, in breve? Il sito rappresenta una guida turistica online, ci sono tantissimi consigli per scoprire la città, quindi da un punto di vista turistico, gli svaghi, i parchi di divertimenti, e al sito da un anno è stato affiancato il blog, che è invece più interattivo e propone quindi delle idee per delle uscite, esposizioni, cinema. Una parte fondamentale del blog è uno spazio socio-culturale che espone la mia visione da italiano della vita in Francia, quindi i difetti dei francesi, dei parigini visti da un italiano. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.italianiaparigi.com. E prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto online per dare voce a chi di voi è espatriato oppure intende intervenire nelle discussioni che lanciamo settimanalmente. La discussione della scorsa settimana era: le università italiane preparano a sufficienza per il mondo del lavoro? Nicola ci ha scritto: la risposta la troverete nelle classifiche mondiali. Sembra che l'Italia sia veramente messa male, molto male. Questa settimana vi lanciamo una nuova provocazione. L'Italia è in grado di offrire adeguata valorizzazione ai laureati nelle materie scientifiche, oppure non li premia a livello di offerte di impiego, carriera e stipendio? E se così fosse, non rischiamo di perdere in termini di competitività rispetto ai paesi dove il capitale umano e scientifico viene ricercato e premiato? Per dire la vostra potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it, oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fan Fuga dei Talenti. Esiste anche un gruppo sul portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti, dove rilanciamo settimanalmente la discussione. E potete pure interagire sul blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Inviateci i vostri contributi, che pubblicheremo online. Vi ricordiamo infine che all'interno del blog è attiva Matching, la prima piattaforma online per avviare partnership tra i giovani professionisti residenti all'estero e i coetanei rimasti in Italia. Usatela, è a vostra disposizione. E finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto allora i vostri contributi online e a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 15, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.